È lunedì 24 ottobre, intanto i titoli, cominciamo dall'edizione del lunedì del Sole 24 Ore, censimento di spese e patrimoni, questo è il titolo di apertura dalle dichiarazioni fiscali, i dati per alimentare il nuovo redditometro che sarà presentato domani di fatto. Poi tutti i quotidiani aprono su cosa? La situazione anche imbarazzante di ieri al Consiglio europeo con le richieste all'Italia ufficiali e l'imbarazzo invece è stato con Sarkozy. Sarkozy proprio ci ha riso dietro, è il caso di dirlo in maniera molto chiara. Beh, intanto i titoli, Corriere della Sera, si andrà in pensione a 67 anni, Berlusconi annuncia la riforma, a Bruxelles l'ironia di Sarkozy e Merkel. Per Repubblica e Stampa lo stesso titolo, UE, ultimatum a Berlusconi. Per la Stampa, a dire la verità, è ultimatum al governo. Eccolo qua, il giornale, Sarkozy come Zidane, il marito di Carla Bruni ci offende ridendo di noi. Il Messaggero, Europa, ultimatum a Berlusconi, anche per il secolo XIX, ultimatum all'Italia, riforme in tre giorni. L'Unità, c'è la foto di Sarkozy e la Merkel con i loro risolini, proprio quando gli è stata fatta la domanda sull'Italia, e il titolo dell'Unità è Facciamo ridere. Queste le aperture dei giornali, andremo a vedere più avanti di cosa si tratta, perché hanno riso o sorriso di noi. Intanto vi voglio segnalare, a pagina 31 del Corriere della Sera, parla per la prima volta in Italia il biografo di Steve Jobs. È un'intervista concessa al Corriere della Sera a Massimo Gaggi. Il tormento di Jobs, alla fine della vita soltanto un click. Così parla il biografo che sta per uscire in Italia con la Mondadori, con la biografia ufficiale di Steve Jobs. Walter Isaacson racconta per la prima volta i tormenti di Steve Jobs. È 50-50, mi diceva, 50-50, a volte credo che Dio esista, a volte no. Vorrei credere nella vita ultraterrena, ma ho il timore che alla fine ci sia solo un tasto on-off, un click, la luce se ne va e tu non ci sei più. Per questo non mi è mai piaciuto mettere tasti di accensione sui prodotti della Apple. Questo è uno stralcio delle confidenze che Steve Jobs ha regalato a Walter Isaacson e che ora racconta in parte al Corriere della Sera. Con me, dice Isaacson, Steve cominciò a parlare di Dio man mano che prendevamo confidenza che la malattia riguadagnava terreno. Non era paura, si interrogava. Voglio credere nella vita ultraterrena, mi diceva, perché questo fa parte della mia formazione buddista. Tutta la saggezza che hai accumulato, la tua conoscenza non svanirà nel nulla quando non ci sarai più. Poi però veniva assalito dal dubbio che alla fine della vita ci sia solo un off switch, no? Lo spegnimento. E ancora racconta anche del suo essere irascibile, a volte quando era così, no? Divideva tutto nella dicotomia eroe-stronzo, per lui eri una cosa o l'altra, senza nulla nel mezzo, magari ti faceva passare da una categoria all'altra nell'arco della stessa giornata, per cui molti amici mi avevano sconsigliato di imbarcarmi in questa avventura, di scrivere la biografia di un uomo impossibile. Una volta si arrabbiò effettivamente, gli portai un progetto di copertina e lui si imbestialì, disse che faceva schifo, si mise a urlare che non avrebbe più collaborato alla biografia se non avesse avuto voce in capitolo sulla veste grafica del libro. E poi, insomma, racconta, era il capo di una grande azienda, ma era un padre anche molto presente, non andava mai a un party, mai a ricevimenti, non accettava premi, tutte le sere a casa, a cenare in cucina con la famiglia, ma era assorbito dal suo lavoro, anche a tavola spesso si estraniava, seguiva i suoi pensieri, amava i figli ma sentiva di non riuscire a comunicare bene con loro. E tra l'altro, infatti, in questa biografia Isaacson dice l'ha voluta proprio dedicare ai figli perché sapessero chi era il loro padre. E c'è anche il rapporto ovviamente in questo libro con la malattia, col fatto che non si curò subito. È stato così l'ultima volta che ci siamo incontrati, viene da qui l'idea dell'inviolabilità del corpo, le sue esperienze in India. Ha rinunciato alla sua inviolabilità dopo molti mesi di malattia, sapeva di avere sbagliato ma era fatto così, voleva l'eccellenza delle terapie tradizionali ma al tempo stesso continuava a cercare alternative. Insomma, stralci di un'intervista molto interessante e ampia pubblicata a pagina 31 del Corriere della Sera, in attesa ovviamente dell'uscita della biografia. Poi una cosa più leggera, esce l'edizione 2012, già pronta, insomma edizione 2012, del Devoto Oli, che come scrive il giornale a pagina 22 è un po' la cassazione, l'ultimo giudizio in fatto di dizionario della lingua italiana. Allora, volete sapere cosa entra, cosa esce? Questo è il quiz di ogni anno, cosa c'è di nuovi termini, cosa sparisce, cosa... Allora, entrano nuovi termini, ovviamente la novità, i click day, docu reality, book reader, la green economy, queste le nuove, definizioni che troverete nel Devoto Oli, o la biopattumiera, il mille proroghe, la lenzuolata, doveroso omaggio a Scalfari, fa sapere il giornale, terzopolista, no, il terzo polo, ma soprattutto entrano i nuovi, come neologismi, alcuni termini tipicamente regionali, la ciaspola, no, si dice andar per ciaspole, l'alpino Bescapè vi potrà spiegare che cosa vuol dire, no, sulla neve con questi oggetti che si mettono ai piedi, oppure il cazzillo, no? Che cos'è? Poi quell'arnese imprecisato di cui non si conosce il nome, ma che serve in quel preciso momento, serve un cazzillo, no? E poi lo scialatiello, un posto per la gloriosa pasta inventata dallo chef amalfitano Enrico Cosentino negli anni 60. Insomma, cazzillo, papello, ciaspola, il dialetto entra nel dizionario, comunque i termini regionali o non solo, questo nel Devoto Oli, fa sapere il giornale a pagina 22. Vabbè, ci fermiamo e rientriamo tra 6 minuti. Allora, sono le 7:35 minuti, eccoci qua nel leggere i quotidiani e dobbiamo capire che cosa è successo in Europa al vertice europeo, dove letteralmente Sarkozy si è preso gioco dell'Italia. E in questa domanda c'era la conferenza con Angela Merkel e lo racconta bene il Corriere, proprio la scena, se non l'avete vista in video, a pagina 2, Merkel-Sarkozy, schiaffo all'Italia, questo è il titolo. Una risata vi seppellirà, gridavano i suoi connazionali studenti nel maggio 68 a Parigi, e questa sua risatina ora? Chi vuole o può seppellire stasera al vertice europeo il presidente francese? Perché è un sorriso sornione, sardonico, la risposta che Nicolas Sarkozy offre a chi gli chiede di Silvio Berlusconi dell'Italia. E allora un giornalista francese chiede: vi ha rassicurato Monsieur Berlusconi sull'Italia, sulle sue riforme? Silenzio. Sarkozy ballonzola sulle gambe come un pugile peso piuma, occhi al cielo, bocca serrata in una piega all'ingiù, in quel ghigno divertito. E ancora Sarkozy allarga le braccia, fissa Angela Merkel, pure lei sorridente lì accanto, come a dire adesso chi risponde. 3-5 secondi, sospesi nel vuoto. Poi la risposta arriva. Abbiamo fiducia nell'insieme delle autorità italiane, nelle istituzioni politiche, economiche e finanziarie del paese. Insomma, sembra una risposta un po' diplomatica, per così dire, dopo invece che il linguaggio del corpo con quelle risatine hanno parlato per 5 lunghi secondi. E tutti i giornali italiani aprono su questo, fanno notare, c'è chi come l'Unità mette facciamo ridere come paese, come governo davanti a Sarkozy e Angela Merkel, c'è chi come il giornale attacca Sarkozy come Zidane e scrive il suo direttore Alessandro Sallusti: i francesi hanno un brutto vizio, quando sono in difficoltà con noi italiani perdono il controllo e diventano arroganti, si mettono a tirare testate pensando così di risolvere i problemi. E qui mette insieme la vicenda, no, di Zidane quando diede la testata celebre a Materazzi nella finale del campionato del mondo, e appunto Sarkozy che ci prende in giro. Sta di fatto che cosa c'è dietro tutto questo? Beh, c'è la vicenda che abbiamo raccontato varie volte, sicuramente quella che urticante di Bini Smaghi, che non è andato alla Banca Centrale Italiana, Banca Italia, e ora deve lasciare, come sarebbe stato promesso, il posto alla Banca Centrale Europea per lasciare posto a un francese, e Sarkozy ovviamente se l'è legata al dito. Sta di fatto che al di là di questa tensione con alcuni titoli, per esempio Berlusconi gela Sarko, così titola il giornale a pagina 3, risate fuori luogo, oppure la versione secondo Repubblica è proprio questa, Nicolà era furibondo solo per Bini Smaghi, su Repubblica a pagina 3 nel retroscena. Le tensioni con Sarkozy si è adontato per via del banchiere Bini Smaghi, ma io che ci posso fare? Questa è la versione di Berlusconi. Invece il ministro degli esteri Frattini, intervistato dal Secolo XIX a pagina 3, dice: Berlino e Parigi ci dicano come salvano le loro banche. Sulla vicenda della Francia dice Frattini: il governo intende fare tutto il possibile per mantenere gli impegni con la Francia, ma per principio la BCE è autonoma dai governi. Berlusconi ha fatto un appello alla responsabilità. Non può certo esserci un diktat alle dimissioni. I componenti della Banca Centrale Europea non prendono ordini dai governi. Sta di fatto che al di là delle risatine o dei sorrisi sornioni di Sarkozy, l'aspetto più importante e anche al quale l'Italia deve vedere con maggiore attenzione uscito dal vertice è che il presidente Van Rompuy ha dato i 3 giorni, quello che suona come un vero e proprio ultimatum. Chiediamo all'Italia un considerevole sforzo con la certezza che sia pronta a farlo delle riforme in maniera scritta con impegni precisi entro 3 giorni. 3 giorni. Avete capito? Mercoledì, 3 giorni, al prossimo vertice già fissato, servono rassicurazioni da Roma. E allora ecco che Berlusconi mette mano a che cosa? Alle pensioni. Così almeno è il piano. Si andrà in pensione a 67 anni, così titola in apertura il Corriere della Sera, cambio le pensioni. Questo è Berlusconi che ora dovrà giocare la partita ovviamente con la Lega, perché come sapete il partito di Bossi è molto contrario a toccare le pensioni. Berlusconi però pare che abbia già sentito lo stesso Bossi, così fa sapere Marco Galluzzo a pagina 3. Ne parlerò con Bossi, venderemo poi gli immobili per tagliare il debito, ma c'è questa questione delle pensioni. Ormai con lo sviluppo della vita media che è intorno agli 80 anni, per i giovani mantenere delle persone che vanno in pensione a 58 anni e poi vanno avanti fino agli 80 e oltre è un carico francamente ingiusto. Di questo parlerò a Umberto Bossi, che ha a cuore i pensionati, ha detto il Presidente del Consiglio, ma questo non collide con la difesa dei pensionati perché non andiamo a toccare o a diminuire le pensioni di nessuno. Però bisogna cambiare per il futuro. Questo è quello che è pronto a fare Berlusconi, toccare insomma la questione delle pensioni. La Stampa, pagina 5, fa già dei conti, provvedimenti concreti entro mercoledì, ci ha chiesto. L'Unione Europea è un bel rompicapo per il governo e dunque ecco il progetto messo a punto. Prevede l'abolizione totale del pensionamento di anzianità, quello garantito a chi raggiunge una quota, ovvero una somma tra età anagrafica e contributiva, entro il 2015. Da quella data per andare in pensione servirebbero 65 anni senza scappatoie per nessuno. Ma ieri il Premier appunto ha detto potremmo alzarla a 67 anni. Risparmio calcolato sarebbe già di 2 miliardi di euro. Sul piano politico, questo, racconta la Stampa, avrebbe costi pesanti: una frattura con la Lega, rottura con la CISL, che finora ha mantenuto una linea decisamente morbida e non conflittuale. Certo, la fine delle pensioni di anzianità non è un provvedimento di quelli che fanno acchiappare voti. Però l'Unione Europea ci chiede di fare subito impegni in 3 giorni concreti. Forse si ritoccherà, e questo non so, visto che il decreto sviluppo Berlusconi aveva detto ho tempo, ora l'Unione Europea fa sapere che questo tempo non c'è più, toccherà anche e sempre di più i dipendenti pubblici. Questo almeno si evince dall'articolo del Sole 24 Ore a pagina 9. Questo avviene un po' in tutta Europa, no? A cominciare dalla Grecia, cioè dove il pubblico impiego ora deve un pochino pagare quelli che sono anni di politiche un po' meno stringenti su di loro. E allora ecco qua, pubblico impiego, una cura infinita, il titolo a pagina 9 nella legge di stabilità, tagli a presidi e ambasciate, le nuove economie sono attese dal 2013. Racconta Gianni Trovati, addio alle indennità varie, pensate per attutire la fatica del trasloco dei dipendenti che cambiano sede, dopo che le manovre estive riprovano con più forza del passato a rilanciare la mobilità negli uffici pubblici, dimezzamento delle gratificazioni nelle ambasciate, accorpamenti delle scuole, una stretta ai segretari comunali, una rimodulazione dei tetti per i contratti a termine negli enti locali. Questi gli ingredienti della legge di stabilità varata 10 giorni fa dal governo, ma tutto lascia pensare che si tratti solo di un assaggio. È stato accantonato l'addio ai buoni pasto, che ogni anno costano 1 miliardo di euro secondo le stime del governo, è sparito dalle bozze della legge con la stessa rapidità con cui era comparso. L'episodio però mostra bene quanto la temperatura sul tema sia ancora alta e i passaggi parlamentari della legge promettono di produrre ulteriori novità. Dunque, sulla legge di stabilità c'è il rischio che i dipendenti pubblici vengano toccati ulteriormente, questo ovviamente staremo a vedere. Mentre per quel che riguarda la lotta fiscale, la lotta all'evasione fiscale, oggi il Sole 24 Ore racconta del nuovo redditometro, uno strumento che verrà presentato di fatto domani, seppure in versione sperimentale alle categorie, uno strumento che attingerà le banche dati attualmente a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, che cosa? Il controllo di spese e patrimoni da tenere sotto la lente di ingrandimento del fisco. Tutti i dettagli sono a pagina 3 del Sole 24 Ore con Marco Mobile e Giovanni Parente. Gli accertamenti sono su quanto si guadagna, ma anche quanto si spende, quanto si risparmia, magari con BOT, CCT, investimenti. Il cerchio così si chiude, la somma delle spese e del risparmio dovrà portare al reddito effettivo. E da lì non si scappa. Insomma, il redditometro chiede aiuto a Unico. Il nuovo strumento sarà alimentato anche con i dati che arriveranno dalle dichiarazioni. L'obiettivo è quello di cercare di stanare gli evasori fiscali. A pagina 3 del Sole trovate tutti i dettagli. E noi dopo il traffico da cosa ripartiremo? Beh, uno sguardo a cosa succede all'estero. E poi c'è Berlusconi che, attenzione, arriva il libro di Bruno Vespa. Sapete quando arriva il libro di Bruno Vespa? Adesso ci saranno ogni giorno distillate come gocce di un'essenza pregiatissima, perle di anticipazioni delle interviste di Berlusconi. L'ultima è questa: il premier accusa chi le porno toghe e i porno cronisti che si sono inventati la storia del bunga bunga. Allora, sono porno toghe, sono porno cronisti. Chi sono coloro, almeno questo nella versione di Silvio Berlusconi, nel libro di Bruno Vespa, che viene anticipato quotidianamente con alcune interviste, devono scusarsi i porno giornalisti e i porno magistrati che mi hanno ricoperto di calunnie. Ci sono decine e decine di miei ospiti che testimoniano la correttezza e l'eleganza dei comportamenti di tutti i miei invitati. Insomma, le feste famose a Palazzo Grazioli. Il bunga bunga lo diceva qualche mia amica, qualche invitata, per dire facciamo 4 salti. Io non partecipavo a causa di un antico e sempre rispettato fioretto. Le continue telefonate delle ammiratrici, ma se io non ho più un cellulare da quando ho scoperto di essere controllato. E tra l'altro accanto c'è la foto di Berlusconi ritratto mentre parla al cellulare, quindi forse c'è qualcosa che non va, almeno da questo punto di vista. In ogni caso, insomma, Berlusconi, l'anticipazione a Bruno Vespa, parla anche, per carità, nessuna si è mai travestita da suora qui. Vivo la religiosità, per me significa avere una chiesa nella casa di Arcore in cui si celebrano matrimoni, funerali e battesimi, ma non significa neanche sentirsi al sicuro per le preghiere delle 8 zie suore di Maria Consolatrice. Figuriamoci però se posso permettermi che in casa mia si compiano atti blasfemi. Insomma, Berlusconi ce l'ha contro i porno giornalisti e le porno toghe. Andiamo a vedere cosa succede all'estero. In Libia ne parleremo alle 8:20 con il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica. Intanto una notizia che certo non incoraggia per sperare nel futuro. Se già le immagini dello scempio che è stato fatto del corpo di Muammar Gheddafi lasciassero dei dubbi, la nuova Libia sarà ispirata alla legge islamica. Così ha annunciato il premier interim Jalil alla festa di Bengasi. Dalla quarantennale dittatura del faraone Gheddafi a una indefinita democrazia islamica fondata sulla sharia che legalizza la poligamia, questo si chiede Lorenzo Cremonesi. Beh, sta di fatto che Jalil, l'appello del leader del Consiglio Nazionale Transitorio è questo, di fatto sarà una nuova Libia ispirata alla Sharia. Tra l'altro ha detto: apriremo forse anche alla poligamia. Perché? Perché il numero alto di giovani combattenti morti dovrebbe indurre i libici ad avere più mogli per ripopolare il paese con tanti figli. Questo ha detto Jalil. Tra l'altro ci si interroga proprio, il giornale lo fa riproponendo le immagini più cruente della fine di Muammar Gheddafi, con dettagli anche inediti che sono apparsi via via nei giorni, testimonianze di gente che ora racconta così l'abbiamo stanato. E poi Vittorio Feltri, per esempio, se lo chiede: attenti ai barbari, chi comanda Tripoli ora non è meglio del Rais. Niente ipocrisie, la realpolitik ci ha imposto la guerra, ci obbliga a trattare coi democratici, tra virgolette democratici, che hanno giustiziato il colonnello. Ma sta di fatto che certo questa fine molto cruenta fa porre molte domande a quello che è successo. Qua bisognerebbe iniziare anche la questione della pagina sportiva, ma la pagina sportiva oggi è tutta inglobata dal dramma che si è vissuto nel motociclismo con la morte di Marco Simoncelli in pista Sepang in Malesia. Ci sono giornali come il Quotidiano Nazionale che aprono sulla sua vicenda, anche la Gazzetta dello Sport fa tutta una pagina con il titolo Sick, il soprannome di Simoncelli, così era soprannominato nel circuito. 1987-2011 Sick, è una foto proprio a tutta pagina di Simoncelli col suo numero 58 in pista mentre corre. E beh, sono tanti racconti, vi segnalo Enrico Sisti su Repubblica, la vita ad alta velocità del SIC, posso sorridere anche alla morte, c'erano anche le critiche alla sua guida spericolata che lo avevano fatto soffrire, ci sono le annesse e ovvie consuete polemiche quando succedono queste tragedie. Per esempio viene sempre sentito spesso un grande campione del passato come Giacomo Agostini, che intervistato dal Messaggero dice: una tragica fatalità, ho sperato fino all'ultimo, ma mi è sembrato subito chiaro che le condizioni di Marco erano disperate, speravo come tutti che potesse salvarsi, in ogni caso nessuna responsabilità, è una tragica fatalità, tante volte abbiamo assistito a cadute incredibili senza conseguenze, poteva rialzarsi, spazzolarsi la tuta e ripartire, è solo stato molto sfortunato. La sfortuna ovviamente è quella di essere scivolato, di essere rimasto attaccato alla moto, di avere avuto subito dietro, essendo anche al secondo giro, due persone, nello specifico Edwards e Valentino Rossi, che lo hanno travolto. E tra l'altro Valentino Rossi, che considerava Simoncelli come il suo erede, il suo fratello di gara, la persona romagnola come lui, esuberante come lui, che poteva davvero prendere un domani l'eredità dello stesso Valentino, e che ha vissuto questo dramma nel dramma, cioè quello di non essere riuscito a evitare Marco Simoncelli in pista, e tutti raccontano proprio l'incubo di Valentino, ripreso ieri in lacrime, per me come un fratello. In ogni caso, insomma, lo sport oggi è tutto qui, non è il caso davvero di parlare di altro. Ora ci fermiamo per il giornale radio.